Radio 24 Reportage. Siria, il sangue oltre il confine, di Ugo Borga e Nancy Porsia. Cento gradini separano la downtown di Tripoli, seconda città del Libano, dai quartieri Taban e Jabal Mohassen, aggrappati sulla collina che sorveglia la città. 200 gradini separano una città in pace da una in guerra. Qui è rimasta solo una indecifrabile ragnatela di cavi elettrici a unire i quartieri alawiti, legati a doppio filo al regime siriano di Bashar al-Assad, ai quartieri sunniti che supportano l'esercito libero siriano. Il lavoro metodico dei cecchini appostati dietro le finestre, al calar della notte lascia spazio al cupo rimbombo degli RPG e dei mortai. Qui, a due passi da un confine che non c'è più, la guerra civile che insanguina la Siria si è insinuata lentamente, fino ad esplodere con una violenza preoccupante. Ad oggi, nel paese dei cedri, da sempre in bilico tra pace e guerra, gli scontri hanno fatto 30 morti e centinaia di feriti. La città è tappezzata di checkpoint dell'esercito regolare libanese, che tenta di arginare il dilagare dei combattimenti e il rischio, quanto mai reale, di un allargamento del conflitto a tutta la regione. Sono migliaia i civili e combattenti siriani che a Tripoli hanno trovato rifugio da una guerra che nessuno sembra in grado di fermare. Nelle viscere degli edifici del quartiere Kabar, scale buie macchiate dall'odore acre della paura, tutti raccontano la stessa cosa. وقفت الحياة بحمص يعني ما في شغل قصف ليل مع نهار دائما مداهمات للجيش يعني دائما Vengo da Homs. Mio marito è rimasto lì a combattere. Io sono fuggita con le mie figlie circa 8 mesi fa. Quel giorno l'esercito è entrato in casa mentre noi dormivamo. Era l'alba. Hanno distrutto tutto. Poi sono arrivati i cecchini e si sono posizionati sul tetto della nostra casa. Hanno occupato le case di tutta l'area, erano ovunque. Aprivano il fuoco su qualsiasi cosa si muovesse in strada. In quello stesso giorno hanno bombardato 2 case nel mio quartiere. La vita si è fermata. La nostra casa oggi è completamente distrutta. C'è un blindato di guardia all'ospedale governativo di Tripoli, acquattato come un insetto, dietro sacchetti di sabbia gialli e rossi. L'ospedale accoglie e cura i combattenti dell'esercito libero siriano e i civili, che qui arrivano soprattutto dalle città di Homs e Al-Qsair, inferni a mezz'ora di motocicletta dal confine, un po' di più, con l'ambulanza. Il lavoro delle organizzazioni umanitarie che si occupano dell'evacuazione dei feriti è pericolosissimo. Nessun accordo con l'esercito siriano. Se intercettano un'ambulanza che trasporta civili feriti d'arma da fuoco, non c'è scampo. Nella stanza 102, l'acqua per il tè bolle in un bricco di peltro scaldato da un fornellino da campo. 2 mitragliatrici giocattolo e un soldatino vegliano insieme alla madre, il piccolo Hassan, 12 anni. Un colpo di mortaio si è preso il suo braccio destro nelle campagne di Al-Qsair. Stavo lavorando. Noi abbiamo una fattoria ad Al-Qsair. Ad un tratto sono stata accecata. Ho visto qualcosa nel cielo e poi improvvisamente ho sentito un'esplosione. Era un colpo di mortaio caduto vicino a casa nostra. Mio marito è morto, mio figlio ha perso il braccio destro. I combattenti dell'esercito libero siriano lo hanno caricato su una motocicletta e lo hanno consegnato alla Croce Rossa Internazionale. La Croce Rossa Internazionale ci ha recuperato e portati qui in Libano. Il regime è disumano. Alle 2 del pomeriggio la folla si raccoglie in piazza Nur. Ogni giorno, da settimane, centinaia di bandiere nere salafite accompagnate da bandiere siriane percorrono le vie della downtown di Tripoli e qui si raccolgono per manifestare il sostegno alla lotta di liberazione del popolo siriano. Il fumo acre dei manichini di Bashar al-Assad, dati alle fiamme, si ricongiunge tra i palazzi a quello dei roghi di gomme e rifiuti che bloccano le strade. Poche settimane fa qualcuno ha sparato sulla folla e allora, dagli slogan, si è passati ai fatti. Le parole dello sceicco salafita Abu Faida lasciano poco spazio alla diplomazia. مهما فعلوا مهما اقترفوا من الجرائم مهما خطفوا من خلال النظام الامني في لبنان مهما خطفوا من شبابنا È grave quello che hanno compiuto. È grave quello che hanno fatto i criminali del regime di Bashar. È grave che le forze del regime siriano abbiano rapito e ucciso i nostri fratelli in Libano. Non erano armati, non rappresentavano alcuna minaccia. Gli hanno sparato addosso. Sono state le forze del regime siriano presenti a Jabal Moassem. Ma questo è solo l'ultimo atto della loro violenza repressiva. Hanno ucciso le nostre donne, i nostri bambini, i nostri uomini ed i nostri ragazzi. La comunità musulmana comprende i salafiti. I salafiti sono sunniti. La comunità salafita è schierata con i suoi fratelli in Siria. Ovviamente i salafiti libanesi supportano non solo i salafiti siriani, ma tutti i fratelli sunniti vittime del regime. Quindi, se volete sapere se i sunniti sostengono i salafiti, la risposta è sì. Tutti sono estremamente grati ai salafiti perché stanno offrendo un supporto importante ai fratelli dell'opposizione in Siria. هم الذين يساعدون أهلنا في بلاد الشام الكل اجتمعوا أهل البلد اجتمعوا بأطيافهم بجمعياتهم بانتماءاتهم بتياراتهم وعلى رأسهم السلفيون نعم Intanto nel quartiere Tabbane i funerali di uno dei martiri sunniti vengono interrotti da combattimenti che si fanno subito molto intensi. Tre miliziani ci ordinano di seguirli. Percorriamo di corsa le strade deserte fino a quando veniamo spinti nel corridoio stretto di un'abitazione. In fondo un muro nel quale è stato ricavato un buco. Lo attraversiamo in ginocchio e ci troviamo in un cortile interno. Una decina di uomini armati circonda il biondo, soprannome di Abu Shahed, capo delle milizie sunnite di Tabbane. Ferito a una gamba il giorno precedente, abbaia istruzioni ai combattenti per mezzo di due radio. Apparecchiature fotografiche e video vengono fatte posare a terra. Combattiamo le forze sciite che occupano il quartiere Jabal Moassem, dice. Difenderemo i nostri fratelli siriani che lottano contro il regime criminale di Bashar al-Assad fino alla fine. Ma è nel quartiere Alawita che le cose si mettono male davvero. L'esercito libanese è intervenuto con l'artiglieria per fermare gli scontri. I tiri di un mortaio squassano l'aria. Nessuno da queste parti si permette di pensare ancora che il conflitto siriano non sia affare libanese. Really, I don't know what happened. I saw everyone in the street, okay? Suddenly, the Lebanese army went from our place. Veramente non so cosa sia successo. Ho visto molta gente in strada. L'esercito libanese è entrato nel nostro quartiere. Poi è successo quello che è successo. Non siamo stati noi a sparare sui salafiti. È stato un fuoco amico dei sunniti a ucciderli. Quale potrebbe essere il mio beneficio nello scatenare una guerra contro i sunniti? Noi siamo 50.000 e intorno a noi ci sono 800.000 sunniti. Dove potrebbe essere il mio interesse nello scatenare una guerra a Tripoli? Ogni giorno siamo sotto attacco. L'operazione è orchestrata dai servizi di intelligence dei paesi del Golfo, che assoldano terroristi per combattere qui in Libano e in Siria. Li abbiamo visti, li vediamo ogni giorno. All the Gulf countries, okay, have been sending money, have been sending terrorists, have been sending, and we saw, we here live, okay, we see them from going from Syria to from Lebanon to Syria. La voce era di Rifad Aid, leader della comunità alawita di Tripoli. Che uomini legati all'esercito libero siriano operino spesso apertamente nel nord del Libano con l'incarico di rifornire i combattenti di armi e generi di prima necessità non è un mistero per nessuno. Il 28 aprile scorso una nave battente bandiera della Sierra Leone, proveniente dalla Libia con un carico d'armi e munizioni, viene intercettata nel porto libanese di Tripoli. Nel mese di maggio è una nave battente bandiera italiana a essere sequestrata dall'esercito libanese. A bordo un carico non autorizzato di armi da guerra, nascoste in due autovetture. I valichi di Arsale Wali Khaled, fino a metà maggio utilizzati dai trafficanti libanesi e dagli attivisti per dare ossigeno alla rivolta siriana, sono oggi resi impraticabili dall'intervento dell'artiglieria di Hezbollah, decisa a interrompere il flusso di materiali e uomini da e per la Siria. Abu Yasser, attivista siriano di 24 anni, opera da mesi nella città del nord del Libano. Two times I'm open fire on them, just for protect myself, not for fighting. Ho aperto il fuoco due volte, solo per difendermi, non per combattere. Sono un civile ed un attivista siriano. Supporto i combattenti dell'esercito libero siriano. È il mio lavoro qui a Tripoli. L'organizzazione di cui faccio parte si occupa di fornire aiuti umanitari e altre cose di cui non sono disposto a parlare. Buy milk. È nello stallo delle autorità libanesi, nella loro reticenza ad affrontare apertamente la questione siriana e le sue inevitabili ricadute sull'assetto del paese, il sintomo più evidente del timore che la situazione stia sfuggendo di mano. L'allineamento della potente comunità sunnita libanese e delle sue milizie con i salafiti, da sempre considerati pericolosi a causa delle loro posizioni fondamentaliste, e la presenza nel paese dei cedri di due eserciti, quello nazionale e quello di Hezbollah, legato al regime siriano, sono elementi che non possono essere sottovalutati. Il futuro del Libano dipende dalla capacità delle sue anime di rifiutare per principio la guerra o di precipitarne nell'abisso settario che potrebbe inghiottire il paese. Quel che è certo è che se saranno le armi a parlare, nessuno sarà disposto a offrire l'altra guancia. There are two choices, okay? Even in here, or everyone will die, okay? And dying with each other is something better to die alone. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.